Focus Economia. Con Simone Spezia. Il 16 di agosto, ma come già vi abbiamo raccontato nel GR e nel giornale radio, l'economia non si ferma, anzi continuano ad essere giornate molto intense. Come vi raccontava il giornale radio, è in corso il vertice tra Angela Merkel, tra la cancelliera tedesca, e il presidente francese Nicolas Sarkozy per fare il punto sulla situazione dell'Eurozona. Ampio dibattito in quelle che vengono definite le cancellerie europee sull'ipotesi di creare dei cosiddetti eurobond, ossia dei titoli di Stato europei, per così dire. Un ampio dibattito che vede i tedeschi al momento piuttosto contrari, anche se persino dalla Germania è arrivata qualche voce divergente. Parleremo di questo, ma soprattutto parleremo del dato sulla crescita tedesca, al quale vi accennavamo, un più 0,1%, insomma sostanzialmente la Germania è rimasta ferma, e cercheremo di capire perché, e parleremo della manovra. L'ultima puntata di Focus Economia andata in onda era venerdì, si è chiusa alle 18. Il tema della manovra lo abbiamo toccato poco, come sapete è tutto in ballo, anche se, come ha detto il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, i saldi restano intoccabili, però sono in ballo parecchie modifiche, ce ne potrebbero essere, c'è qualche apertura anche, almeno apparentemente, a qualche idea del Partito Democratico. C'è una parte del PDL che ha presentato delle sue controproposte, e questo è un tema che toccheremo, ma toccheremo soprattutto quello che è il decreto al momento, come si presenta il decreto al momento, e quali sono le vie di effettiva modifica sulle quali sta ragionando la maggioranza. Toccheremo il tema dei mercati, come vi dicevamo poco fa sono negativi, comunque Milano continua a essere la peggiore anche oggi, meno 1,10% sul FTSE MIB, meno 1,13% sul FTSE All Share, mentre il resto d'Europa perde circa mezzo punto percentuale, fa un po' peggio Francoforte, meno 0,75%. Qualche dato positivo per gli Stati Uniti ha confortato il mercato americano, il dato sulla produzione industriale, ve ne parleremo tra poco, e poi anche la decisione di Fitch di mantenere invariato il rating sugli Stati Uniti, una AAA con outlook stabile, quindi il voto resta lo stesso, e anche le prospettive per quanto riguarda l'America, almeno secondo Fitch, rimangono le stesse. Toccheremo anche il tema di una grande operazione avvenuta ieri, una grande operazione finanziaria, che riapre la cosiddetta guerra dei telefonini o del software per i telefonini, chiamatela come volete, ed è l'acquisizione da parte di Google di Motorola. 12 miliardi e mezzo ha pagato Google, il che equivale a circa un 63% rispetto alla chiusura di borsa di Motorola di venerdì. Andiamo subito con le notizie in breve di oggi. Iniziamo dall'oro, 1765,10 dollari l'oncia questa mattina in Asia, in realtà poi ha toccato anche i 1780, siamo sotto i massimi, sotto il record, secondo alcuni analisti citati dall'agenzia di stampa Radio Cori Il Sole 24 Ore. Comunque l'obiettivo 2000 dollari l'oncia resta fissato, cioè la tendenza è comunque rialzista. Segnali apparentemente positivi per i consumatori, ma che spesso agli economisti vengono interpretati come negativi, perché segnali di una recessione potenziale. Ancora giù il petrolio in apertura, scende a $85.84 a New York, meno 2,3%. Nel frattempo, e questo ve l'abbiamo raccontato, anche questo nei giornali radio, continua la fuoriuscita di petrolio dalla piattaforma Gann & Talloff a 180 km da Aberdeen, sulla costa orientale della Scozia. Ieri la Shell, che gestisce la piattaforma, aveva comunicato che erano state perse circa 200 tonnellate di greggio, poco più, circa 1300 barili. Si tratta, secondo gli esperti, dell'incidente più grave nell'area dal 2000, ma il punto è che oggi Shell ha comunicato che c'è un'altra perdita, stanno cercando di identificarla. L'America... L'America con Fitch, che come si diceva conferma il rating, la tripla A, l'outlook resta stabile. E ancora i dati sulla produzione industriale di luglio, produzione industriale cresciuta dello 0,9%, l'incremento più consistente dal 2011. Gli analisti si aspettavano mezzo punto percentuale, quindi un dato positivo. E poi le costruzioni di case nuove negli Stati Uniti, calate dell'1,5% a luglio a 604.000 unità. Però anche qua gli analisti si attendevano un dato peggiore. Per quanto riguarda gli spread, invece, i differenziali di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi sono risaliti oggi a 274 punti, dopo questo pomeriggio, insomma, metà mattina, dopo i 269,6 di questa mattina. Secondo quanto riferiscono alcune fonti di stampa, la Banca Centrale Europea ha acquistato questa mattina nuovi titoli di Stato italiani e titoli di Stato spagnoli. Secondo alcune fonti, titoli di Stato italiani a 3 anni, spagnoli a 5. Nel frattempo la Spagna ha collocato sul mercato bond per 5,7 miliardi di euro a 12 e 18 mesi, ad un anno e ad un anno e mezzo, rispetto ad un obiettivo massimo di 6 miliardi. Premi di rendimento in deciso calo. L'interesse per quelli con scadenza ad un anno è del 3,3%, era del 3,7% nell'ultima asta. E la domanda è stata pari a 2,1 volte l'importo offerto. Poi c'è l'incontro tra Angela Merkel e Nicolas Sarkozy, è iniziato da poco all'Eliseo, la cancelliera tedesca è arrivata, come avete sentito ci sarà una conferenza stampa alle 18.30. Secondo un consigliere economico del governo tedesco, Peter Bofinger, Sarkozy e Merkel potrebbero annunciare nel vertice di oggi delle proposte che porteranno eventualmente all'emissione di Eurobond. E però il ministro dell'economia tedesco, Philipp Rösler, si è detto nuovamente contrario. Come si diceva, segnali contrastanti. E tutt'altro che contrastanti sono i segnali che arrivano invece dall'economia tedesca. Il PIL nel secondo trimestre è rimasto sostanzialmente fermo, più 0,1% contro il più 1,3% del secondo trimestre. Mentre per la Spagna il PIL del secondo trimestre è rallentato ad un più 0,2%. Contro lo 0,3% del trimestre precedente. Sulle difficoltà dei paesi europei, sul rallentamento dell'economia tedesca, Valentina Furlanetto ha intervistato il professor Marco Fortis, docente di economia industriale alla Cattolica di Milano, all'Università Cattolica di Milano, ed editorialista del Sole 24 Ore. Sentiamo. Dopo il crollo del PIL del 2009, nel 2010 la Germania ha effettuato un rimbalzo statistico formidabile, soprattutto delle esportazioni e degli investimenti, e tuttavia già la Bundesbank nel

pesare in più sulle tasche degli italiani e dare meno nei benefici, questo vuol dire la manovra. Però il problema è di vedere come si fa e soprattutto se guarisce la malattia. Allora vede, noi non possiamo andare avanti in questo modo, il paese andrà alla rovina se non c'è un discorso diverso sul problema dell'evasione fiscale. Cioè, lo so benissimo che mettere tutti in elettronico, mettere tutti in rete, obbligare a minimizzare l'uso del contante in un modo feroce è l'unica via per andare avanti. Quando io sento che in questi giorni le cassette di sicurezza che tengono contanti in Svizzera si stanno riempiendo e non ce n'è più una, ho già capito tutto cosa sta vedendo. Allora è inutile dire ma obbligare la contabilità è comunista. Allora vuol dire rovinare il paese, cioè siamo di fronte a due drammi in Italia diversi dagli altri paesi europei, sono la criminalità e l'evasione. La democrazia si difende con le ricevute, sia chiaro, le ricevute moderne sono un sistema elettronico che controlla quanto si spende, quanto si ricava e che lascia la tracciabilità. Se noi non abbiamo il coraggio di far questo, il paese sarà sempre un paese disastrato. La democrazia si difende con le ricevute, dice Romano Prodi. 349-238-6666 per i vostri sms. Saluto Gianni Trovati del Sole 24 Ore in studio con noi. Gianni, buonasera. Buonasera a voi. Allora, iniziamo a dare qualche dettaglio su questa manovra d'agosto, posto che ci sono in campo una serie di possibilità di modifiche alle quali sta lavorando una cosiddetta fronda di deputati del PDL, una ventina di persone delle quali si è fatto oggi portavoce Giorgio Straquadagno. Dice Berlusconi prevarrà la disciplina di partito e nel frattempo arrivano anche proposte naturalmente dalle altre parti politiche, a partire dal Partito Democratico. Noi cerchiamo al momento di stare sui fatti e anche su quelle che possono essere le concrete possibilità di modifiche, e partiamo proprio dal contributo di solidarietà, perché nel fine settimana si erano diffuse indiscrezioni secondo le quali Berlusconi sarebbe stato intenzionato a lavorare per togliere o quantomeno per ridurre questo contributo di solidarietà. Ieri ha detto molto nettamente: questo contributo resta. Gianni, come funziona? Allora, come funziona? Il contributo di solidarietà, che tra l'altro è strettamente collegato con quello che diceva Prodi sulla democrazia che si difende con le ricevute, riguarderà sostanzialmente i lavoratori dipendenti con reddito medio-alto e gli autonomi che le ricevute le fanno. Questa è, come dire, una battuta per dire che ci sono redditi reali che dovrebbero essere raccolti, diciamo così, interessati dal contributo di solidarietà, ma non lo saranno. Naturalmente, allora, sono quelli che dichiarano 20.000 e magari ne guadagnano 150. Esattamente, sì. Molti di questi che sono andati in Svizzera in questi giorni a fare la coda per mettere al sicuro le proprie cose. Comunque sia, al di là di questo problema, diciamo, di principio, che però è fondamentale, il contributo di solidarietà è fatto in due modi. Allora, per i redditi superiori a 90.000 euro si chiede il 5% della fascia superiore a 90.000 euro, per la fascia superiore a 150.000 euro si chiede il 10%. Cioè, in sostanza, Gianni, oltre i 90.000, cioè il 5% cade sulla parte che eccedente i 90.000. I 90.000 euro, su quella prima non succede nulla. Okay. Sulla parte che eccede i 150.000 si chiede il 10%. Attenzione però, perché questa richiesta è deducibile dal reddito dell'anno successivo, con un meccanismo un po' strano, un po' originale, diciamo così. Facciamo due calcoli. Allora, se uno guadagna 200.000 euro di reddito all'anno, gli vengono chiesti 3.000 euro, che sono il 5% della fascia 90.000-150.000, più 5.000 euro, che sono il 10% della fascia tra 150.000 e 200.000. Fa 8.000 euro. Chiarissimo. Il primo anno. Il secondo anno, questi 8.000 euro vengono scalati dal reddito imponibile. Per cui se tu guadagni 200.000 euro anche l'anno successivo, in realtà hai uno sconto, una deduzione di 8.000 euro e scendi di imponibile a 192. A 192, chiarissimo. E questo anche per l'anno successivo? Questo anche per l'anno successivo, per cui nei 3 anni, non sa, alla fine della fiera, siccome tu deduci dal reddito dell'anno successivo, alla fine della fiera il contributo di solidarietà non sarà 8.000 euro per tre, ma sarà meno perché avrai le deduzioni negli anni successivi. Chiaramente. C'è una seconda norma che però riguarderà i redditi molto molto alti, diciamo così, una seconda opzione. Se tu calcoli che sul tuo reddito è più conveniente applicare il 48% invece del 43% sull'ultima fascia, allora tu ti dimentichi del 5%-10% del meccanismo che abbiamo detto prima, applichi il 48% sull'ultima fascia di reddito, questo non è deducibile nell'anno successivo. Questo crea un simpatico sudoku dell'estate per i benestanti, che si potranno calcolare se è meglio la prima o la seconda opzione. Se non hanno voglia di calcolarselo, tutti i dettagli su Sole 24 Ore di come domani. Come sempre, naturalmente. Allora, veniamo ad altri temi di questa manovra. Partendo da questa famosa Robin Hood Tax, che tra l'altro oggi ci ha, ha avuto un discreto effetto sui mercati, vedremo poi di valutare, perché c'è una serie di queste società che oggi hanno subito questi pesanti cali, che sono società di Stato, quindi poi bisogna capire insomma quanto poi convenga piazzargli una tassa come questa e quando poi in borsa a questo effetto, ma questo naturalmente è tutt'altro ragionamento. Quello che vogliamo capire, Gianni, è in cosa consiste. Allora, questa Robin Hood Tax, che ha regalato speranze, diciamo così, sabato soprattutto al governo, diciamo così, e comincia a regalare già qualche delusione oggi, come forse vedremo poi negli approfondimenti di borsa, è nata sostanzialmente per garantire, per puntellare con un'altra entrata l'aggiustamento dei conti pubblici, per dare un'arma aggiuntiva, diciamo così, per evitare altre manovre. È un po' complicato, ma insomma si può spiegare in maniera abbastanza diretta. Molte parti di questa manovra sono costruite con una sorta di effetto domino, cioè io prevedo questa misura, se questa misura non dà le entrate, non dà la correzione che io voglio, scatta un'altra misura e così via. Questa cosa determina appunto una sorta di effetto domino, nel senso che siccome si è aperta, come dicevamo giustamente poco fa, una discussione, c'è la fronda, le proposte, eccetera, eccetera. Allora, nella versione definitiva del testo si sono moltiplicate le armi per dare ulteriori entrate. Questa Robin Hood Tax, che è sostanzialmente un prelievo straordinario sugli utili delle imprese energetiche, in un periodo in cui appunto però sia le difficoltà dell'economia reale da un lato, sia le difficoltà della borsa dall'altro, abbattono un po', diciamo, questa base imponibile e la rendono un po' complicata, sono state pensate per, come dire, dare un'opzione in più rispetto alle altre di cui si parlava nei giorni scorsi, classicamente l'aumento dell'IVA di un punto percentuale e poi quella minaccia di tagliola sui benefici fiscali, la cosiddetta riforma dell'assistenza, che è chiamata a raccogliere ulteriori entrate con un automatismo in virtù del quale, se il Parlamento nei prossimi mesi non riordina tutti i benefici fiscali che ci sono, lavoro dipendente, figli, spese sanitarie, ristrutturazioni, scatta un taglio lineare immediato prima del 5% il primo anno, poi del 20% il secondo anno. Siccome sia l'aumento dell'IVA è considerato, diciamo, problematico da molti, sia questa tagliola dei contributi fiscali è considerata problematica da tutti, mettiamola così, sì, si è creata un'altra possibile arma di entrata per dire va bene, puntelliamolo in quella maniera lì. Non sembra stia andando molto bene. Allora, vedremo che cosa succederà. Nel frattempo ci chiedete, mi risulta che deputati e senatori, dite i nostri onorevoli, ma insomma si intende deputati e senatori, non pagheranno il contributo di solidarietà. Viriamo la domanda a Gianni Trovati. Gli onorevoli parlamentari, i membri degli organi costituzionali, Camera, Senato, Presidenza della Repubblica, Corte Costituzionale, pagheranno un contributo di solidarietà doppio, proprio per dare, come dire, il buon esempio, perché quando si chiedono sacrifici ai cittadini è giusto che chi li chiede li faccia doppio. Il ragionamento non fa una piega però all'applicazione di questo ragionamento, nel senso che gli onorevoli pagheranno il contributo di solidarietà su una fetta delle loro entrate, cioè l'indennità, diciamo, parlamentare. Le entrate però di un parlamentare sono un panorama molto più articolato, che prevede diarie, rimborsi spese vari, eccetera, che fanno circa 8-9 mila euro al mese, anche qualcosa di più, sto andando a memoria, che però sono etichettati come rimborsi spese, per cui sono entrate, non entrano nell'imponibile, quindi non pagano il contributo di solidarietà. Quindi il contributo di solidarietà degli onorevoli è doppio, ma con lo sconto. È una cosa un po' che viola, diciamo così, il principio di non contraddizione, ma in Italia succede. Succede spesso. Per la serie Tutto il Mondo è Paese, vi segnaliamo che oggi il Parlamento iracheno ha dato il via libera ai tagli degli stipendi del presidente, dei ministri, dei parlamentari, dopo un tot di malcontento sociale nel paese. Un taglio del 23% per i deputati, del 30% per i tre presidenti e per i ministri. Si rimane comunque intorno ai 6.000 euro per i deputati, cioè 10 milioni di dinari in Iraq, 6.000 euro e 4.750 il 8 milioni di dinari lo stipendio di un ministro. Un'ultima domanda per te, ci è arrivato da un ascoltatore che ci chiede della seconda opzione, quella del 48%, cioè se uno sceglie di pagare il 48% invece del 43% e poi il contributo di solidarietà. Esatto. È deducibile o no? Ecco, questa seconda opzione non è deducibile, e proprio per questo questa clausola di salvaguardia, diciamo così, risulta conveniente solo per i redditi molto molto alti, cioè quelli in cui la fascia superiore a 150.000 euro, su cui si chiede il 10%, rappresenta, diciamo, la maggioranza, quindi ci vogliono almeno 250.000 euro abbondanti sopra i 150.000 euro per considerare conveniente questa seconda opzione, che in pratica è l'applicazione del 48% invece che del 43% sull'ultima fascia, senza differenza rispetto all'IRPEF normale, quindi senza deduzioni l'anno successivo. Chiarissimo. L'ultima domanda, l'ultimo tema che tocchiamo è quello delle pensioni. Io vi ricordo che poi su questi temi naturalmente cercheremo di tornare nei prossimi giorni, anche in vista delle eventuali modifiche che potranno arrivare, delle ipotesi di modifiche che arriveranno sul tavolo, e che soprattutto trovate ben più che qualche pagina sul Sole 24 Ore su questi temi. Allora Gianni, il tema dell'innalzamento dell'età pensionabile delle donne. Sì, lì c'è stato l'argine della Lega, rivendicato anche dallo stesso Bossi nel comizio di ieri sera a Ponte di Legno, anche con parole colorite nei confronti degli altri ministri, e questo ha molto smussato, diciamo così, le ipotesi iniziali. C'è una anticipazione di quel meccanismo lentissimo e lunghissimo che alza progressivamente l'età di maturazione dei requisiti della pensione di anzianità delle donne che lavorano nel settore privato. Doveva partire nel 2020, parte nel 2016, doveva finire nel 2032, finisce 4 anni prima, però funziona, diciamo così, con lo stesso meccanismo previsto dalla manovra, quindi un mese ogni anno sostanzialmente. Ultima domanda, sempre sul tema delle pensioni. Oggi è uscito dal capogruppo del PD nella Commissione Affari Sociali della Camera, Margherita Miotto, questa notizia. Dice: si prevedono subito tagli per 24 miliardi per le pensioni degli invalidi civili. Si sa qualcosa di questo? No, allora qui sugli invalidi civili c'è un problema di comunicazione, nel senso che da un lato è sempre bello, è ironico naturalmente, sempre utile in campagna elettorale o comunque nei comizi elettorali dire perché le risorse si trovano con le finte pensioni di invalidità. Diciamo che queste finte pensioni di invalidità sono già state soggette negli ultimi anni a forti controlli. Il problema è che tra le vari pacchetti del menu c'è ancora chi chiede un ulteriore intervento su questo tipo di indennità, soprattutto sul fronte dei controlli, perché ovviamente diventa difficile, visto l'importo, voglio dire, molto ridotto di questi assegni, diventa difficile recuperare soldi o addirittura, questo francamente impossibile, cercare di abbassare l'indennità a chi ne ha diritto. Chiarissimo, grazie Gianni Trovati, contributo di solidarietà sull'ordo, sul netto, sull'ordo totale complessivo prima degli oneri deducibili, per cui la prima casa torna a essere un po' tassata. E ci chiedete chi è il maggior contribuente d'Italia, se non erro è esattamente Silvio Berlusconi, molto probabilmente. Grazie a Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buonasera. Grazie a voi. E adesso i mercati. Il quadro dei mercati è negativo, come si diceva, il FTSE MIB è giù dello 0,8%, il Francoforte dello 0,45%, mentre l'America riesce a cavarsela, anche qua uno 0,42%, confortata in parte anche da qualche dato, come si diceva, abbastanza positivo. Guido Maurino, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, dacci un quadro di giornata, perché è stata assai movimentata e assai volatile anche quella di oggi. Se non sbaglio, il FTSE MIB è arrivato a perdere un 3% addirittura. Sì, è arrivato a perdere un 3% prima di riprendersi un po' dopo l'avvio di Wall Street e la diffusione di alcuni dati americani che citavi anche tu prima, in particolare quello sulla produzione industriale cresciuta più delle attese, che ha un po' compensato una serie di altri dati che invece avevano preoccupato l'Europa, soprattutto quello relativo al PIL della Germania, che è cresciuto nel secondo trimestre solo dello 0,1%, riaccendendo tutti i timori che ci sono stati in queste settimane sulla crescita economica dell'Europa. Vediamo di dare un quadro sui singoli titoli. Ci chiedete di Fiat, adesso ci arriviamo con calma, prima andiamo per temi e poi andiamo sui singoli titoli e poi leggeremo anche qualche sms sulle parole di Romano Prodi che vi abbiamo fatto ascoltare poco fa, perché come al solito ci si divide a volte un po' più per chi ha parlato che non per quello che ha detto. Comunque veniamo sui temi generali, e il tema di oggi a Piazza Affari sono senza dubbio gli energetici, Guido. Sì, oggi tema principale sono gli energetici, in particolare perché vediamo titoli che sono soliti muoversi molto poco, che hanno perso decisamente. Terna ha ceduto il 13,64%, Snam Rete Gas il 9,9%, Enel Green Power il 5,42% e anche Enel meno 4,25%. Tutto questo risiede un po' nella manovra approvata venerdì dal governo e che è andata a modificare l'addizionale IRES su queste società, la famosa Robin Tax, come viene definita in questi giorni. Questo cos'è cambiato sostanzialmente rispetto a prima? Che la Robin Tax viene introdotta anche per Terna e Snam Rete Gas, che quindi pagano il prezzo maggiore, e viene alzata per società come Enel, che prima pagava il 6,5%, oggi paga il 10,5% sugli utili, e per cui insomma anche Enel ha perso il 4,25% oggi. Tra l'altro stanno uscendo alcune stime. Snam Rete Gas stima un costo, se non sbaglio, di 150 milioni, Terna di 300 milioni, è uscito poco fa, se non erro. E poi c'è anche un tema, Guido, non so se su questo state anche ragionando là in redazione, del costo che ha tutto questo, perché queste sono società di Stato sostanzialmente, insomma, con un forte azionariato di Stato, e quindi questi cali di borsa non faranno bene, suppongo. Sì, c'è un cioè po' quel che entra da una parte esce dall'altra, no? Sì, c'è un po' il senso del paradosso che calcolavamo prima in redazione, anche così per divertirci un pochettino, che dalle perdite di capitalizzazione per la quota che attiene al Ministero del Tesoro erano attorno a 1,8 miliardi e 1,8 miliardi sono proprio le attese che dovrebbe fornire questa Robin Tax. Dato comunque interessante, bene i bancari complessivamente oggi, insomma, se il listino non è andato malissimo lo dobbiamo a loro probabilmente. Sì, oggi è stata un'altra giornata positiva per tutto il comparto bancario, in particolare Monte dei Paschi ha guadagnato il 4,19%, BPM il 3,91%, Mediobanca il 3,76%, Intesa San Paolo il 3,6%, continuano gli acquisti come avevamo visto già alla fine della scorsa settimana. D'altra parte anche lo spread fra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi sembra ormai essersi un pochettino stabilizzato sotto i 260 punti base, questo è senz'altro una buona notizia. Oggi si facevano anche alcune analisi sull'impatto che potrà avere la manovra per i titoli bancari, alcuni operatori sottolineavano che siccome la manovra rischia di avere un effetto depressivo sull'economia, questo potrebbe poi ripercuotersi negativamente anche sulle quotazioni delle banche, ma non si è visto, ecco, oggi a Piazza Affari. Grazie Guido Maurino di Radio Corriere Sole 24 Ore. Ci chiedete di Fiat. Fiat va male dopo la notizia che la 500 potrebbe non centrare i target di vendita negli Stati Uniti. Grazie Guido Maurino di Radio Corriere Sole 24 Ore. Buonasera. Buonasera. minuti, 5 secondi e veniamo a un tema che ieri i mercati li ha mossi parecchio, perché ricordatevi che ieri era chiusa praticamente solo Piazza Affari, nel senso che tutte le altre piazze finanziarie erano aperte. E se Wall Street a fine giornata è andata bene, tutto questo è dovuto anche all'operazione Google Motorola. Abbiamo in studio con noi il collega della redazione Enrico Pagliarini. Enrico, buonasera. Buonasera a tutti. Come sapete, conduttore di 2024, esperto di temi tecnologici e non solo, per parlare proprio di questo. Prima di tutto, qualche dettaglio in breve, Enrico, sull'operazione. Allora, questa è un'operazione che è stata definita la maggiore del settore negli ultimi 10 anni. Pensate che Google ha messo sul piatto 12,5 miliardi di dollari e c'è chi dice che, nonostante la cifra sembri elevata, abbia speso poco. Ricordiamo che Motorola all'inizio dell'anno è stata separata in due, è stata divisa in due, la parte che produce infrastrutture di rete, la parte che produce sostanzialmente telefonini, smartphone e tablet. Infatti stiamo parlando di Motorola Mobility, questa parte, che negli ultimi anni non andava molto bene. Quindi c'è chi dice che è entrato con un piede direttamente nel settore della produzione di telefonini pagando sostanzialmente poco, anche se la quotazione che Google paga dell'azione rispetto alla chiusura di venerdì è del 63% più alta, quindi sicuramente gli azionisti sono contenti. Dunque, lo scopo dell'operazione Google Motorola, c'è chi ha detto, è una questione di brevetti, Enrico. Esattamente, uno dei grandi problemi che le aziende del settore stanno affrontando è quello del grande contenzioso che è cresciuto negli ultimi mesi, cioè denunce contro denunce per violazione di brevetti nel settore della telefonia mobile. Stiamo parlando sostanzialmente di software e hardware, quindi sistemi operativi e telefonini, smartphone e ci aggiungerei anche tablet. Giusto per farci capire, per capire che aria tira, nel 2009 Nokia ha denunciato Apple, naturalmente dopo l'uscita di iPhone. 2 anni dopo, nel giugno di quest'anno, le due aziende, dopo denunce contro denunce, si sono accordate e sostanzialmente Apple ha ammesso, insomma, di avere copiato. Ed è naturale che in questo settore così, così veloce c'è qualcuno che copia brevetti di altri. Allora, Google ha sottolineato che in questo caso la sua intenzione è quella di mettere le mani su 17.000 brevetti di Motorola per mettersi un po' al riparo da eventuali possibili cause. Pensate che ha ripetuto questa cosa 24 volte durante la conference call, e c'è chi sospetta che Google voglia spostare l'attenzione su questo tema, perché c'è un altro grande tema. Perché Google compra un'azienda che produce smartphone, telefonini? Fino adesso Google è entrato in questo settore producendo sostanzialmente e sviluppando un sistema operativo che è Android, che è cresciuto moltissimo, ha, pensate, ormai una quota di mercato nel mondo del 43%, e viene utilizzato da 39 aziende in tutto il mondo. Citiamo le più famose: HTC e Samsung. E tutti si domandano. Di qui i problemi, naturalmente. Esatto. Perché sono concorrenti di Motorola questi. Esattamente. Tutti si domandano: ma che cosa diranno e che cosa stanno dicendo Samsung, HTC e molti altri? Allora, Google ha sottolineato subito dicendo: non vi preoccupate, Android rimarrà un sistema aperto, tutti lo potranno utilizzare. Naturalmente c'è chi sospetta che invece nel giro di qualche anno questo sistema operativo possa diventare proprietario. Allora, qua siamo di fronte a un grande punto di domanda, e diciamo che Google si è messo in buona posizione sul bivio che sta vivendo questo settore. Il modello di business vincente per il futuro sarà quello della Apple, cioè sistema proprietario, lo uso solo io e non lo do a nessuno, e produco anche il terminale, quindi hardware e software integrati, o vincerà il sistema di Google? Abbiamo visto una crescita incredibile, quindi un sistema operativo che viene distribuito gratuitamente a tutti, un po' come è successo per Windows, anche se Windows non è gratuito nel mondo dei PC. Chi vincerà? Quale sarà la strada migliore? Sicuramente Google si è messo in una buona posizione, perché acquisendo Motorola potrebbe molto velocemente, poi tutto è relativo, diventare un produttore come Apple. Sicuramente l'obiettivo è quello di conquistare la leadership e diventare, insomma, un forte produttore. Lo è già, ma insomma. Chiaramente, anche se hanno detto che resterà un'azienda separata. Vedremo quanto questo è vero. Grazie nel frattempo, grazie ad Enrico voi. Pogliarini. Buonasera, Enrico. Buonasera. Veniamo all'ultimo tema di questa giornata. Parliamo di Made in Italy. Nel frattempo ci scrivete naturalmente sul tema di... allora, innanzitutto sul tema del chi è il primo contribuente d'Italia. Ci sono altri più ricchi di Berlusconi, ci scrivete, siete faziosi. Non siamo faziosi, l'ha detto il Presidente del Consiglio, più di una volta l'ha ripetuto, sono il primo contribuente d'Italia. Non abbiamo sotto mano i dati, domani ve li forniremo. Parliamo di Made in Italy, appunto. Poco i giorni fa l'Amarone Allegrini 2007, parliamo di vino, si è aggiudicato il China Wine Challenge 2011, è stato aggiudicato dai cinesi il miglior vino rosso del vecchio mondo, quindi insomma per questo paese le cose non vanno solamente male. Un Made in Italy che sfonda anche in Cina, evidentemente. Siamo in collegamento con Marilisa Allegrini, titolare dell'omonima azienda vinicola, buonasera. Buonasera. Allora, ci dia qualche dettaglio in più su questo premio. Allora, intanto il China Wine Challenge porta alla ribalta del mercato cinese, che è uno dei mercati a cui tutti i produttori guardano con interesse, ovviamente per le grandi potenzialità che ci sono, porta appunto alla ribalta di questo mercato un vino importante dell'azienda Allegrini, ma mi piace anche che sia un vino della Valpolicella e mi piace che sia uno dei vini più importanti d'Italia, l'Amarone. Amarone che può decisamente conquistare il gusto dei consumatori, sia di quelli, ha conquistato già i consumatori esperti, diciamo, ma anche le new entry nel mondo del vino, perché è un vino che è abbastanza facile da capire, ed è facile da capire per la sua tecnica, la tecnica con cui viene prodotto, che è quella dell'appassimento, e che gli dà questo sentore di uva appassita e che lo rende quindi molto facilmente identificabile e facilmente abbinabile anche ai cibi. Ecco, questo è ciò che questa è la sostanza. Ecco, la giuria di degustatori è fatta da persone, c'è il primo sommelier di Cina, ma ci sono anche importanti rappresentanti del mondo enologico mondiale, da Decanter all'Istituto del Master of Wine e ad altri giornalisti decisamente di grandissimo valore. Chiarissimo, quindi è un premio assegnato in Cina ma che chiaramente ha un valore internazionale. Io però voglio rimanere proprio sul tema della Cina perché da quel che sappiamo dal punto di vista della presenza dei vini rossi in Cina è terra di conquista francese essenzialmente. Allora, le cose mi sembra che nell'ultimo periodo siano andate piuttosto bene, nel senso che le esportazioni verso la Cina sono balzate di circa il 108%. Allora, quello che le chiedo è che cosa ci vuole per conquistare questo mercato, perché poi, come al solito, ci si scontra, e questo vale a maggior ragione per il settore del vino, che da questo punto di vista è ancora più caratterizzato, ci si scontra col consueto problema italiano, ossia affrontare un mercato potenzialmente gigantesco con imprese essenzialmente piccole. Ecco, allora, se noi intanto dobbiamo guardare all'esperienza dei nostri cugini francesi. Allora, i vini francesi di alto livello sia di immagine che di prezzo avevano in anni recenti subito quella che è stata la crisi economica mondiale, e difatti le vendite nei paesi tipo gli Stati Uniti, Nord America in generale, erano diminuite notevolmente. Che ha risollevato proprio il mercato dei vini francesi è stata la Cina. E perché questo? Perché il cinese che approccia il consumo di vino in questo momento guarda essenzialmente al brand. Quindi un brand riconosciuto a livello mondiale diventa appetibile dal consumatore nuovo, diciamo, che avanza. Cioè, lei dice basta avere la parola Bordeaux dentro e la cosa funziona, tanto per dirne una, insomma, visto che parliamo di rossi. In questo caso è il brand, non è solo il brand, il nome dell'azienda della produttrice. Cantina proprio, dell'azienda produttrice, chiaro. Sì, questo è stato il traino iniziale, poi a seguito a ruota è andato il nome Bordeaux in generale. Quindi quello che succederà all'Italia, secondo me, secondo quello che io posso capire di questo mercato, è abbastanza speculare. Le aziende italiane che hanno un brand importante saranno quelle che faranno da apripista. Dopodiché ci sarà un benefit generale, perché ovviamente il brand si porta dietro la denominazione e quindi poi ne beneficia di tutta la denominazione. Secondo lei siamo in ritardo o il mercato è talmente vasto e talmente forte anche il modello italiano, insomma, del vivere, del mangiar bene, del quale tante volte abbiamo parlato, e del made in Italy in genere, che c'è tutto lo spazio per recuperare? Allora, secondo me non siamo in ritardo, perché questi sono fenomeni appunto che sono successi nel giro di 2-3 anni, però non dobbiamo perderci d'animo e non dobbiamo lasciar passare il tempo, perché ovviamente in questo mercato tutto succede molto rapidamente e quindi noi dobbiamo essere pronti. Quello che io so del mercato cinese è che solo il 30% del mercato segue i canali tradizionali, quindi quelli della ristorazione, del dettaglio, che è ancora molto all'inizio, dell'oreca in generale, insomma, e l'altro 70% è rappresentato da quei canali che nemmeno noi produttori conosciamo, nel senso che ci sono i grandi gruppi che propongono il vino come omaggio natalizio, per esempio, ai loro clienti importanti. Poi ci sono i consumi privati, che questo è un canale che dobbiamo veramente andare a capire come funziona, perché se pensiamo a quanti ricchi cinesi vogliono avere una cantina con i grandi nomi, e lì dobbiamo capire come riusciamo ad arrivare a questo tipo di consumatori. E immagino che premi di questo genere aiutino parecchio. Grazie nel frattempo a Marilisa Allegrini dell'azienda Allegrini e buonasera. La ringrazio, grazie a tutti gli ascoltatori e buonasera. Siamo in chiusura, ci comunicate che Silvio Berlusconi in realtà quinto al quinto posto come contribuente italiano. Su Terna, l'ha detto Terna, la Robin Hood Tax potrebbe ridurre di oltre 300 milioni di euro l'utile netto cumulato di Terna nei prossimi 5 anni. Così abbiamo risposto a due domande e la chiudiamo qua. Con Focus Economia ci risentiamo domani dopo il GR delle 17. Radio 24. La passione si sente.